il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Inizia oggi la settimana sanremese. Domani tutti i cantanti si affacceranno alla ribalta cantando le loro canzoni nuove. Uno di questi 20 cantanti, peraltro, sarò io. Ma questo non ci interessa in questo momento, perché noi cercheremo in questa settimana di raccontare l'epopea del festival, che è andata in qualche modo di pari passo con la storia di questo paese. È cambiato molto Sanremo, è cambiato molto questo paese. Insomma, noi cercheremo di fare un parallelismo tra l'Italia e il nostro festival. E quindi partiamo da una prima edizione di festival che abbiamo scelto, che è quella 1980. Naturalmente l'ho anche scelta perché è stato il mio anno di debutto con i Decibel, però comunque l'edizione 1980 fu particolare. Il festival usciva dal decennio buio, cioè il peggiore della sua storia, diciamo quello dal 72-73, 7 anni difficili, fino al 78-79, quindi l'80 fu vista in qualche modo come un'edizione nella quale piano piano il festival risorgeva dalle sue ceneri. E poi erano anni particolari. Negli anni 70 era successo di tutto in questo paese. Sono ricordati come gli anni di piombo, c'era poca voglia di perdere tempo dietro a un festival leggero. I tempi erano ideologizzati, erano duri, erano cupi, c'era violenza, c'erano le Brigate Rosse, e c'era chi scriveva che in fondo le Brigate Rosse erano solo dei compagni che sbagliavano. Insomma, c'era poco da pensare alle canzoni. Tra l'altro, quel decennio si era chiuso con una nota positiva all'interno di tutto questo scenario, perché il 22 dicembre del 1979 Fabrizio De André veniva liberato dopo aver passato 4 mesi in mano alla anonima sequestri. Fondamentalmente i veri prigionieri continuano a essere i sequestratori, non noi. Tanto è vero che noi siamo usciti e loro sono ancora dentro. E credo che se dovessero uscire lo faranno per prendersi una pallottola. Comunque anche il 1980 era iniziato male. Il 6 gennaio era stato ucciso Pier Santi Mattarella, che era il presidente della regione Sicilia, fratello dell'attuale capo di Stato. 3 giorni dopo la fine del festival verrà ucciso sempre dalle Brigate Rosse il professor Bachelet, che era il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Insomma, in quel momento Sanremo è un po' staccato, un po' decontestualizzato rispetto al forse uno dei periodi più bui che abbia vissuto l'Italia nel dopoguerra. E non era stato così, perché all'inizio, per esempio dal 51 in avanti, compresi gli anni 60, in qualche modo Sanremo aveva testimoniato, anticipato e seguito la rinascita del dopoguerra. Miei cari amici vicini e lontani, buonasera. Dal Salone delle Feste del Casinò di Sanremo trasmettiamo la prima serata del Festival della Canzone Italiana. L'orchestra è diretta dal maestro Angelini. Cantano Mille Pis, Achille Togliani. Quello che avete sentito era il grande Nunzio Filogamo, il primo presentatore, quello che coniò l'espressione cari amici vicini e lontani, e in realtà perché parlava degli amici vicini, che erano quelli davanti a lui, e a quelli lontani a casa e in radio. Il primo festival appunto viene trasmesso solo per radio, e il festival non era ancora all'Ariston ma al Salone delle Feste del Casinò. Il biglietto costava ben 500 lire, che nel 51 era una somma decisamente alta. Gli ospiti seguivano la manifestazione seduti ai tavoli come nel nightclub, c'era l'orchestra del maestro Angelini. I padroni del festival erano gli editori, perché in realtà per una ventina d'anni la commissione sceglieva le canzoni che venivano proposte dagli editori. In un secondo tempo l'editore andava a prendere dei cantanti che dovevano cantare le canzoni. Stiamo parlando del periodo, come dire, antecedente all'arrivo dei cantautori, e quindi in gara c'erano in realtà le canzoni e delle voci che dovevano prestarsi a cantarle. I cantanti erano solo tre: Nilla Pizzi, Achille Togliani e il duo Fasano, e ogni cantante cantava più canzone, e vinse Nilla Pizzi con la celeberrima Grazie dei fiori, amata da tutte le nonne, comunque ricordata come prima canzone vincitrice di Sanremo. L'edizione dell'80 ovviamente è lontana anni luce da quel 1951. Non c'è l'orchestra, ci sono le basi preregistrate, anche noi Decibel avevamo una base, io ci cantavo sopra. Il palcoscenico è diverso, viene disegnato quell'anno un palco stile discoteca, e si cerca di svecchiare il festival, di avvicinarlo ai gusti di un nuovo pubblico. Arrivano anche degli ospiti stranieri, Susi 4, Sheila B. Devotion, quindi la dance, Sylvester, e però arriva anche una band di fronte alla quale, insomma, io mi sono un po' genuflesso perché li avevo già visti dal vivo, ed erano degli alfieri del, non dico del rock duro, ma insomma di un simpatico rock inglese anglo-americanizzato, e arrivarono a Sanremo a cantare proprio la loro canzone più famosa, quella che rimarrà nella loro storia, che era Whatever You Want, e loro erano gli immensi Status Quo. La dice lunga sulle intenzioni degli organizzatori anche la scelta del presentatore, perché Gianni Ravera, grande patron che tiene il festival in mano dal 62, ha un'idea ben precisa, e la facciamo raccontare proprio dal presentatore di quell'anno. Vediamo se lo riconoscete. Io facevo Discolinea, ero entrato praticamente a settembre 1979, era entrato a Discoling, e a novembre fu chiamato da Ravera. Ravera che mi disse: mi piacerebbe che tu presentassi il festival. E poi mi dice: perché fino adesso i festival di Sanremo ci sono i presentatori che si prendono troppo spazio, no? Invece io voglio una cosa moderna, un disc jockey come te, no? E mi ricordo la battuta che mi disse: poi con te ci stanno più canzoni, e poi voglio fare una cosa da discoteca, voglio fare tutta una scenografia. Poi era il primo festival senza orchestra. Pensate che Cecchetto ha solo 27 anni, ha già alle spalle una lunga carriera come DJ, come conduttore radiofonico, e nel 79 aveva cominciato a condurre una trasmissione allora celeberrima che era Disco Ring, ideata da Buoncompagni e condotta da un disc jockey che si chiamava Wanagana, insieme a lui, a Claudio Cecchetto. In questa atmosfera carica di ritmo, di simpatia, di allegria, di spensieratezza, di giubilo, di musica, a Wanagana vi dà il benvenuto a questa versione 79-80 di Disco Ring. Sono qui con due angeli custodi. Sì, mi aiuteranno Claudio. Eccoci qui con la Hit Parade italiana. Lascia stare, Claudio, abbiamo capito, non ti preoccupare. Calmo. Mi sembrava il caso, rilassa. Visto che mi hai nominato, di partire immediatamente con la Hit Parade. No, dopo la Hit Parade. Però c'è l'Hit Parade. C'è la Hit Parade aperta, okay. Non ti preoccupare con i Led Zeppelin, ma roba da matti. Dunque. E quindi Cecchetto accetta la sfida e si mette a lavorare a una trentesima edizione del festival che si preannuncia sui generis, anche se in realtà è un festival, insomma, ancora intriso di melodia. I gruppi sono i Collage, la Bottega dell'Arte, gruppi molto melodici con i cantanti con i capelli cotonati, e ci sarà una band che in qualche modo andrà a scardinare questo equilibrio, ma quindi questo vi parlo dopo. Intanto c'erano anche altri personaggi interessanti, tra cui un altro presentatore di cui vi parlerò dopo. Nel frattempo, per esempio, mi viene in mente un altro ospite straniero molto forte, anche perché era, per noi, insomma, era quello che aveva lavorato con i Beatles e con gli Stones, era Billy Preston, che arriva con una ragazza che si chiama Sherita e cantò una canzone che rimase in classifica, si chiamava With You I'm Born Again. Quindi non era male quel festival. Il falco e il gabbiano. stiamo raccontando l'edizione 1980 del Festival di Sanremo, un'edizione particolare non solo per me che debuttavo quell'anno a Sanremo, ma particolare per molte ragioni che vi stiamo raccontando. E stiamo raccontando del festival, dell'inizio, della ricostruzione. Tenete conto che si svolgeva in tre serate. Le prime due serate, quella del giovedì e del venerdì, andavano in onda in radio e in differita dalle 10:30 in avanti in televisione. E quindi, oltretutto, insomma, se venivi eliminato, a molti è capitato, per fortuna non a noi, quindi non andavi neanche in TV, ti sentivano solo per radio. E poi in diretta Rai 1 c'era solo la serata finale. Insomma, impensabile oggi che il festival si svolge su 5 serate. Abbiamo parlato di Claudio Cecchetto, che ai tempi era quello di Disco Ring ed era la voce di Radio 105 ed era stato chiamato lui a condurre il festival. Però la voglia di sparigliare il mazzo da parte dell'organizzatore Ravera va ancora oltre, perché a fianco di Cecchetto lui vuole un comico e prende un giovane comico toscano che ha solo 27 anni. Si tratta di Roberto Benigni, che non era ancora famoso come oggi, era semplicemente l'inviato dell'altra domenica di Renzo Arbore, che era un altro programma mitico in quei tempi, in cui Arbore assemblava personaggi con i quali si collegava, e Benigni faceva la parte di uno stralunato e impreparato critico cinematografico. Insomma, Benigni è il classico personaggio emergente, non ancora conosciuto dal grande pubblico, però sulla rampa di lancio. Ravera lo vuole e gli chiede solo di tenerlo informato su quello che intende fare. Lui non fa una piega, gli dice solo che a un certo punto vuole dare un bacio alla sua presentatrice, alla donna di scena, che è l'attrice Olimpia Carlisi, con la quale ai tempi è fidanzato. Poi le cose andranno ben diversamente, e nel frattempo c'è Cecchetto, che non vede l'ora di iniziare, è molto contento di poter condividere con Benigni le fatiche della conduzione. Chiaramente io continuavo a preoccuparmi di presentare il festival. Ero contento perché dicevo: tanto ci sono le due serate che vanno in radio e in teatro, mi abituo, così quando vado in televisione sono un pochettino più preparato. Però ero molto preoccupato. Un giorno mi chiama il direttore Salvi, Giovanni Salvi, e mi dice: senti, ti devo dare una notizia, non sarai solo a presentarlo, ma ci sarà Roberto Benigni. Io ho fatto i salti non mortali, il triplo calcio. Quindi la squadra è completa. E poi ci sono i cantanti, naturalmente, che sono 30. È un po' complicato, cerco di spiegarvelo per com'è e per come me lo ricordo. Praticamente ci sono i veterani, chiamati così, che sono quelli che possono accedere direttamente alla finale. E poi invece ci sono quelli che vengono chiamati debuttanti, che devono passare attraverso una selezione tramite giuria. Vi aggiungo che quell'anno le qualificazioni erano veramente simili alla Europa League, all'Europa League di oggi, perché iniziamo in 80 per aggiudicarci, insomma, i 10 posti dei giovani tra i debuttanti, quindi era veramente l'ultima categoria possibile. E noi Decibel siamo andati a Sanremo tre volte a fare proprio gli ottavi, i quarti, le semifinali, e però insomma andò bene. Quindi tra i debuttanti c'eravamo noi, i Decibel con Contessa, poi in ordine sparso, insomma, Vicito Pupo, Toto Cutugno, Leroy Gomez, che era il cantante dei Santa Esmeralda, quelli di Don't Let Me Be Misunderstood, c'era Sally Oldfield, che era la sorella di Mike Oldfield, c'era Stefano Rosso con L'Italiano, non L'Italiano di Cutugno, è un'altra canzone che parlava d'Italia, e poi c'era il fratello di Eugenio Edoardo Bennato, che si faceva chiamare Giorgio Zito. Si racconta che i fratelli avessero imposto a lui, che era un po' troppo rocchettaro e in più che andava a Sanremo, di cambiare il cognome, chissà se è vero. Insomma, c'erano vari personaggi. E poi c'era un Gianni Morandi, che noi vedemmo da ragazzini, ci sembrava un reperto di archeologia. Cioè, in realtà Morandi nel 1980 aveva 36 anni, non era così vecchio, però per noi era assolutamente fuori dal tempo e dallo spazio, e cantava una canzone, tra l'altro, che non ebbe molto successo, ma fu l'inizio della sua lenta, inesorabile e gloriosa risalita. Si chiamava Mario. Insomma, questa Mario, diciamo che non entra nella top 100 dei successi di Gianni Morali, però era un modo per ricominciare. Poi c'era Peppino Di Capri, c'era Bobby Solo con la mitica Gelosia. Ma sentiamo la prima presentazione fatta da Benigni, una presentazione un po', come dire, sui generis anche questa. E vorrei far presente la mia felicità di essere qua al Festival di Sanremo, 30ª edizione. Grazie signori! Sono Benigni e volevo ringraziare Gianni Ravera, e la vostra presenza qua con noi, e sono molto lieto di presentarlo, i primi tre cantanti che abbiamo in gara adesso che siamo in Eurovisione, o meglio in Neurovisione, viva Gozzano, sono tre cantanti con nomi di città: Nicola Di Bari, Peppino Di Capri e Bernardo D'Arezzo. Questo è il primo tris che vi presentiamo. E naturalmente l'unico concorrente era Peppino Di Capri, e avete sentito un Benigni insomma un po' impacciato rispetto al mattatore televisivo che siamo abituati a conoscere, però ci sono due momenti in cui Benigni risalta, non certo in maniera plebiscitaria, perché a un certo punto lui fa un monologo e tira in ballo il Papa Giovanni Paolo II. Il problema è che lo chiama "voi ti laccio", un gesto affettuoso ma che ovviamente non viene apprezzato da tutti. Poi c'è stata una rivalutazione dell'amore libero proprio da parte di Sua Santità, proprio da parte di Wojtyla. C'è stata questa rivalutazione che dalla Bibbia erano nudi e non provavano vergogna, che tutti siamo stati d'accordo, perché effettivamente si erano accorti che avevano commesso, ma molto romanticamente, un errore. Perché secondo loro noi prima non potevamo mai fare all'amore, se ci si pensa, si faceva sempre peccato. Allora c'è questa rivalutazione, perché quando siamo giovani, 13-14 anni, da soli non si può, che si fa peccato mortale. Quando siamo più grandi si fa l'amore con una donna che non siamo sposati, non si può, che è di peccato mortale. Se siamo sposati, mettiamo, non si vuole figli, non si può, perché si sciupa il frutto del Signore. Allora si poteva fare l'amore solo sposati e quando si volevano dei figli. Allora due si sposavano, dice: quanti figli vogliamo? Due. Bene, si fa l'amore una volta a 25 anni, una volta a 45, e chi si è visto si è visto. È così. Allora però, ora il nostro Wojtylaccione se ne è accorto e allora ha detto: è l'amore libero, libero amore. E poi chiama Cossigaccio, il presidente del consiglio Cossiga, poi propone che siano i politici a cantare le canzoni in gara e dice che per i democristiani va bene "Solo noi", per i comunisti "Gelosia", per i radicali "Voglio l'erba voglio", erano tre nomi di canzoni in gara. Poi canta una sua canzone che si chiama Pantheon, insomma la fa da padrone in molti momenti di questo festival. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando il Festival di Sanremo e siamo partiti da un'edizione abbastanza significativa, che è l'edizione del 1980, significativa perché era il primo atto di una rincorsa e di una risurrezione del Festival di Sanremo, che arrivava dagli anni di piombo e comunque dagli anni bui, quelli dal 73 al 79 diciamo. E poi perché in qualche modo si stava affacciando agli anni 80 in una maniera diversa. Ma era un'edizione importante anche per gli scandali determinati da Benigni, e poi, consentitemi, fu un'edizione importante anche perché per la prima volta qualcuno che arrivava realmente dal mondo alternativo, in questo caso i Decibel, un gruppo punk, andarono al Festival di Sanremo. Tenete conto che in quei momenti non era molto gradita la presenza di un gruppo rock all'interno del festival dagli altri. Cioè, io avevo le scritte sotto casa: Decibel, traditori del proletariato, servi del potere, eccetera eccetera, proprio perché nessuno gradì tra il movimento rivoluzionario milanese che un gruppo andasse a Sanremo. Si sbagliavano loro, perché solo due anni dopo a Sanremo sarebbe arrivato Vasco Rossi e poi ci sarebbero passati praticamente tutti, compresi i nomi della musica alternativa e indie, andando avanti dai Subsonica ai Perturbazione. Tutti gli indie dei decenni successivi a Sanremo ci sono andati. Comunque, Io arrivo a Sanremo, chiaramente prima di allora lo seguivo, da bambino affascinato e poi da giovane rocchettaro disgustato dalle canzoni che vedevo, però insomma mi ero reso conto che in qualche modo era una vetrina alla quale era meglio andare piuttosto che vederselo da casa. Con i Decibel stavamo preparando il nostro secondo album, all'interno dell'album c'era questa canzone che era Contessa, che aveva scritto, peraltro pur essendo una canzone pianistica l'aveva scritta il nostro chitarrista che si chiama Fulvio Muzio, io avevo scritto le parole, e quindi arrivavamo lì completamente diversi da tutto perché non c'era internet, insomma noi arrivavamo dai viaggi a Londra e quindi in qualche modo eravamo vestiti, pettinati in una maniera che in Italia nessuno conosceva e obiettivamente, ripeto, grazie al fatto che non si sapesse nulla di quello che accadeva nel mondo, noi eravamo di pari passo con gli inglesi, ma 30 anni avanti a tutto quello che trovammo in quel festival. Io avevo i capelli ossigenati, tutti avevamo le mesh bionde, arrivavamo in pelliccia, io avevo gli occhiali bianchi, avevamo la certezza che ce l'avremmo fatta, che comunque avevamo una differenza rispetto agli altri, poi in realtà avevamo anche un atteggiamento tipico dei vent'anni di supponenza, di aristocratica arroganza nei confronti di tutti gli altri, però la verità è che in fondo Contessa è rimasta e le altre canzoni no. Ma come vi avevo anticipato prima, il Festival dell'80 viene ricordato anche per un bacio, perché a un certo punto Benigni mette in pratica quello che aveva detto a Ravera, cioè a un certo punto io bacerò la mia fidanzata. Ovviamente si era dimenticato di dire che il bacio non era né un casto bacio, neanche un bacio profondo, era un bacio di 45 secondi. Per cui in realtà i telespettatori italiani e anche noi che guardavamo il festival da lì sono rimasti basiti in questo silenzio raggelato e un po' imbarazzato con due persone che limonano per quasi un minuto sul palco di fronte a tutta l'Italia. Quindi diciamo una performance. E poi di Olimpia Carlisi non si parlerà molto, eppure aveva fatto teatro d'avanguardia, aveva recitato nel Casanova di Fellini, aveva recitato con Bertolucci, addirittura nella Terrazza di Ettore Scola. Per Sanremo, devo dire, era veramente bella, aveva un vestito nero tipo Rita Hayworth in Gilda. Insomma, fu veramente un evento che lasciò tutti a bocca aperta, compresi loro due sul palco. Vorrei vedere Olimpia perché... io gli ho detto diverse volte se era possibile... Madonna ragazzi, è bella proprio però, parte di scherzo, fa effetto proprio all'uomo umano. Io dicevo a Olimpia che noi dovremmo amarci e io solo devo dichiarare, insomma, tu... Te veramente non me l'hai mai detto. Che cosa? Te l'ho detto io, semmai. Me l'hai detto te? Allora ripeti loro se hai coraggio. Vorresti fare l'amore qui in Eurovisione? Io per me, se te ti va bene, io... A me, lo sai, io sono un ragazzino vispo. E va bene. Silenzio, sono cose serie. Ecco, qui io ero in scena, durante tutto questo applauso e queste urla, loro sono sempre sul palco a limonare, ripeto, a bocca aperta, noi giù e loro su. E questo bacio mette in grande agitazione gli addetti ai lavori, arriva a un certo punto l'assistente di scena che si spinge sul palco, che strattona Benigni fuori e lui inizia a baciare tutti, anche i cameraman e chiunque gli capitava sotto tiro. Bene, noi andiamo un attimo a presentare il Festival d'Imperia e poi torniamo qua. Arrivederci. E le trovate di Benigni non si fermano qui. A un certo punto porta come ospite d'onore della serata un suo compaesano, uno che si chiama Giulio Cappelli, che è assolutamente sconosciuto, non ci sono neanche tante notizie a riguardo di questo. Cioè lui porta uno e lo quasi a dissacrare, dimostrando che se tu presenti anche un personaggio qualsiasi con l'enfasi giusta, la gente rimane comunque predisposta. Infatti mi ricordo che tutti applaudirono Giulio Cappelli e la gente si diceva: ma chi è questo? E non capivano. E poi, insomma, è la verità che gli scandali rivitalizzano qualsiasi cosa, e così la gente comincia a appassionarsi di nuovo al festival e comincia a generarsi quell'indotto di collegamenti, di radio, TV, di pagine sui giornali e tutto quello che poi verrà chiamato la kermesse festivaliera e che allora non esisteva. E poi naturalmente c'è il premio, ogni festival di Sanremo deve avere il suo vincitore e in quell'anno c'è un meccanismo strano di premiazione, cioè viene decretata la prima classificata e poi tutte le altre vengono considerate seconde ex aequo, abbastanza strano soprattutto dopo che avevano fatto i 32esimi, i 16esimi, gli ottavi, i quarti di finale. Fatto sta che un vincitore c'è e come. Le giurie hanno proclamato vincitrice della 30ª edizione del Festival della Canzone Italiana la canzone Noi Solo Noi di Salvatore Cotugno, eseguita da Toto Cotugno. Quindi intanto da notare la, come dire, la freddezza impacciata di questo speaker che non capisce che si sta giocando il momento chiave dell'ascolto e invece la racconta come un impiegato, un messo comunale. Poi questo sbaglia il titolo perché è solo noi e non noi solo noi e sbaglia anche il cognome del vincitore, lo chiama Cotugno invece che Cotugno, quindi diciamo che fa veramente un unplane immediato. Il vincitore di quel Sanremo 1980 ce l'abbiamo al nostro microfono. Lui aveva già cantato in una band che si chiamava Albatros prima e poi invece al debutto va a beccarsi la statuetta. Buongiorno Toto. Ciao Enrico. Come stai? Bene, io facevo parte degli Albatros, tu facevi parte dei Decibel. Esatto, io dei Decibel in quell'anno. Infatti stiamo raccontando il festival dell'80. Era il festival che esce dagli anni 70, il festival che esce dalla sì. Crisi, che si riaffaccia, insomma, ai fasti poi baudiani degli anni successivi. Senti, tu in quel festival vinci, arrivi primo. La canzone era Solo Noi, le ascolta. Tu ci speravi? È stata una vittoria inaspettata o eri tra i favoriti? Non ero fra i favoriti, assolutamente. No, non me l'aspettavo. Infatti io mi ero già tolto il vestito. Uh-huh. E Guerrino, che era il nostro tecnico, mi è venuto a chiamare dicendo guarda che devi venire, però dico ma figurati se vinco io. E poi quando mi hanno chiamato non avevo neanche la giacca addosso, perché se guardi la televisione sono rimasto in camicia. Sì. Quindi ho cantato al pianoforte la canzone tutta stonata, perché io non sono un cantante, quindi ho stonato. Poi l'emozione. Senti, che altri ricordi hai? Ho un ricordo bellissimo, perché io ne avevo fatto già due festival, ma non come solista, diciamo. Sì. Ma con gli Albatros, poi mi sono ritrovato come solista grazie a Mike Buongiorno, perché Mike dovevo fare una sigla Scommettiamo Che. Sì. E allora voleva una canzone mia e io gliel'ho fatta e lui mi ha detto ma perché non la canti tu, Toto? Perché quindi mi sono ritrovato a fare il cantautore senza rendermene conto, visto la mia timidezza, perché sono sempre stato molto riservato. Mi sono ritrovato a Sanremo come solista e ti assicuro che me la sono fatta addosso. Ah, ecco, vedi. Ho cambiato 4-5 mutandine, diciamo. Senti, Toto, tu saprai che insomma sei anche conosciuto nell'ambito del festival per questa curiosa stranezza per la quale sei arrivato qualche volta secondo, direi, no? Tipo Gimondi con Merckx. Però Merckx era sempre... Certo. Senti, qual è stata la canzone tra quelle che sono arrivate seconde con le quali, non dico ci sei rimasto male, perché poi insomma tutte le canzoni che hai fatto hanno fatto il giro del mondo, ma che hai pensato questa secondo me era doveva vincere? Sì, gli amori con Ray Charles, quello pensavo di aver vinto tutto quell'anno lì. Ho ero capito. Sicuro, perché di fronte a un genio della musica come Ray Charles pensavo che entrasse nell'anima della gente, quindi che votassero Ray Charles, non me naturalmente, però pensavo pensavo di vincere quell'anno. Sì. Ho capito. Senti, e allora chiudo con un devi ricordare, dirci qualcosa su Ray Charles. Ray Charles è venuto 4 giorni prima a Sanremo, ci siamo conosciuti, lui mi voleva sempre nel suo taxi. io l'inglese non lo parlavo tanto bene, però c'era il traduttore che mi diceva, ad esempio, ma Ray Charles vorrebbe sapere che scuola hai fatto, ma Ray Charles voleva sapere se ti piace il jazz, ma Ray Charles voleva sapere... Lo incuriosivi. Di una curiosità incredibile. Quando poi ha cantato a Sanremo, io ho chiesto, posso mettermi con la sedia a due passi dai Ray Charles, che me lo voglio godere, e mi ha messo proprio appena fuori dalle quinte e mi sono gustato l'interpretazione di Ray Charles, che mi ha fatto venire la pelle d'oca, non la potrò mai dimenticare. Toto, ti ringrazio infinitamente. Ce la fai a guardare il festival? Sì, se sono a casa sì. Ok. E tu, momento, mi stanno dicendo che sei al festival. Sì, no, anche per quello ti chiedevo, solo guardare. Allora ti vedo, poi ti chiamo il giorno dopo. Spacca d'accordo. Tutto. Ciao Enrico. Ciao. Però da questo festival esce anche un'altra canzone che rimarrà nel tempo, che diventa un po' una pietra miliare del repertorio di un altro cantante che fa il cantante tuttora con grande successo, soprattutto all'estero, soprattutto all'est, ed è Pupo, che arriva credo al terzo posto, perché poi si sono rincorse delle voci in cui un certo Enzo Malepasso arrivò secondo con una canzone Ti voglio bene al 102%, questo era l'inciso, me lo ricordo perfettamente. Terzo arrivò Pupo. A me risulta che arrivarono quarti decibel con Contessa, ma siccome questo non verrà mai diffuso ufficialmente, diciamo che tutti quei partecipanti possono dire tranquillamente di essere arrivati quarti, quindi non voglio fare il millantatore, ma tant'è. In realtà da quel festival esce anche un pezzo che fa grande strada, soprattutto all'estero, ed è Su di noi di Pupo. Ma poi, come avevo detto all'inizio, ci sono anche nomi stranieri e neanche tanto di seconda fase. Abbiamo già detto Billy Preston e gli Status Quo, Susy 4, Sylvester, però c'era anche una signora molto brava con la quale io ho avuto anche l'onore anni dopo di cantare in uno show per la TV tedesca, è una grande donna che stava muovendo i primi passi nella musica, si chiamava Dionne Warwick, era la cantante preferita di Burt Bacharach e cantava un pezzo che si chiama I Know I Never Love This Way Again, grande canzone. Insomma, il Festival di Sanremo 1980, per fortuna e anche per mia fortuna, è un successo, è l'inizio di nuovo dell'idilio che c'è tra gli italiani e il Festival di Sanremo, un amore che si consoliderà poi negli anni a venire, e noi questa settimana parleremo di altri 4 anni significativi del Festival di Sanremo, che in qualche modo ha segnato anche il passo a una Italia che cambiava e a un mondo che stava cambiando. Le persone che hanno dato i colpi d'ala all'interno del Festival di Sanremo sono state tante e probabilmente saranno tante ancora, quindi noi in realtà questa settimana racconteremo di questo cielo libero che è il Festival di Sanremo, all'interno del quale molti hanno volato. Al di là del gioco di parole su volare, che è una delle canzoni più famose del festival, molti hanno volato in alto a Sanremo, qualcuno invece è anche sbattuto a terra, e ognuno di noi nella vita d'altra parte può salire e scendere in maniera anche vertiginosa, e il problema è riuscire a dare almeno un colpo d'ala. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui volete che noi, una volta tornati dal festival, si parli, fatelo, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it e visitate la nostra pagina, e poi ci sono i miei social in questi giorni particolarmente attivi, quindi se volete mi trovate. Ciao, a domani.